sì, una buona domanda, anche perché la biografia di Marley, come tante biografie di artisti, sarebbe stata complessa da trattare in toto, per cui c'è un viaggio umano che copre un periodo di poco meno di 2 anni, ma molto cruciale, che inizia nel dicembre del 76, quando Bob Marley è vittima di un attentato, di un famoso attentato a Kingston, conseguenza di cui deve lasciare la Giamaica perché non si cura per lui, quindi si rifugia a Londra, in cui realizza, tra l'altro, registra materiale per 2 album, uno dei quali, Exodus, è uno dei suoi dischi più acclamati, tra l'altro votato dalla rivista Time in America l'album del secolo. La vicenda si conclude quando Bob Marley torna in Giamaica per suonare questo concerto di pacificazione che si chiama One Love Peace Concert, in cui farà questo gesto abbastanza eclatante, cioè chiamerà sul palco i 2 principali leader politici giamaicani, il primo ministro Col Marley, capo dell'opposizione Edward Siaga, per fargli stringere la mano in segno di pacificazione. Quindi questo è il periodo cronologico, che è anche un periodo molto importante nella sua vita, anche perché in questo periodo, nella primavera del 77, come conseguenza di una partita di calcio, Marley scopre anche di avere un melanoma, un tumore della pelle, i cui sviluppi porteranno poi agli altri tumori, per cui morirà nell'81. Ecco, quindi diciamo che racconta un periodo abbastanza cruciale, insomma, della vita di Bob Marley. E come riescono a raccontarlo, e secondo te se riescono anche a farlo bene, perché poi vedo che tra i produttori c'è anche la sua famiglia, ecco, quindi forse la parte biografica è veramente molto forte. Sì, è molto forte, diciamo che ci sono degli argomenti controversi, diciamo che riescono bene anche perché la ricostruzione è molto puntuale, gli attori sono bravissimi, assolutamente bravissimi, gli attori che interpretano Bob Marley e Rita Marley soprattutto, che sono un po' quelli, ovviamente, i ruoli principali. E ci sono anche dei flashback, delle scene oniriche che cercano di rendere un po' tutta la vita, questo periodo di 1 anno e mezzo abbondante è un viaggio spirituale in cui, secondo il film, Marley trova completamente la sua voce, diciamo che ha uno sviluppo anche intimamente spirituale, ecco, e ovviamente ci sono delle scene che hanno a che fare molto con la spiritualità Rastafari della musica reggae. Sì, guarda, devo dire che, a parte qualche cavillo, qualcosa che magari colgono i super appassionati, il film è fatto veramente molto bene ed è anche molto emozionante, molto ben recitato anche dai personaggi secondari. Ecco, quindi possiamo dire che ti è piaciuto. Qual è la cosa che ti è più piaciuta? Ma guarda, devo dire nel suo insieme, cioè alcune cose sono un po' implausibili, sono un po' delle licenze poetiche, ma magari questa cosa è un po' d'appannaggio, come ti dicevo, dei grandi appassionati. Ti dico, è un film che riesce a dare l'idea di quello che era Marley, c'è tanta musica, ci sono delle bellissime scene di sala prove, di studio, di artisti che lavorano per comporre canzoni importanti, diciamo. Guarda, devo dire che nel complesso è un film molto bello. Tra l'altro, non avrei mai immaginato che a quasi 43 anni dalla scomparsa di Marley il film avesse così tanto successo e creasse così tanto clamore, perché è quasi campione di incassi in tutti i paesi in cui è stato distribuito. Ecco, questo secondo te come mai? Perché insomma è una figura mitica, ecco, mi verrebbe da dire, e quindi rimane comunque nel tempo sempre la sua influenza presente, non solo musicale, mi verrebbe da dire. Sì, gli ingredienti sono un po' sempre gli stessi, che sono comunque stati anche astutamente aggiornati e modellati attraverso decenni di cambiamenti, diciamo, dei media, soprattutto con l'avvento di internet e dei social. C'è comunque la cosa principale, secondo me, della fascinazione di Marley, a parte l'immagine, è anche che Marley comunque era un personaggio musicalmente relativamente illetterato, cioè aveva imparato a fare musica proprio nel ghetto, diciamo, anche solo attraverso la voce, strumentazione di fortuna, e suonava la chitarra ma non benissimo, ma aveva questa capacità incredibile di comunicare emozioni che venivano dal cuore, rendendole universali, rendendole accessibili a tutti e colpendo dritto il cuore degli ascoltatori. Diciamo che nella musica di Marley c'è dolore e rabbia, c'è anche gioia, e nelle sue canzoni questi sentimenti di diventano universali, cioè il dolore, il sentimento di rivalsa di Marley incarna quello, diciamo, di tutti quelli nella stessa situazione in tutto il mondo. Questo spiega anche il fatto che canzoni come Get Up, Stand Up, ogni volta che ci sono dei fermenti sociali, come per esempio la primavera araba, sono dei motori di spinta per questi movimenti di ribellione ancora oggi.